metti nell'aria, non le devi nascondere. Le conosci a memoria, ma non puoi condividerle se il tuo viaggio è in un posto lontano, più libero. Oltre i muri che vedi, andando avanti, fra i discorsi invidiosi e arroganti. Le cose che senti nel cuore, non rinnegarle mai. Sono fragili, ma possiamo difenderle se voleranno in alto i nostri pensieri più limpidi. Aiutami a ritrovare l'interesse per le piccole cose che sono alla base di tutte le promesse del futuro che cresce. Perché sono le sfumature a dare vita ai colori e a farci tornare in mente le cose più pure dei giorni migliori. Dei giorni migliori, dei giorni migliori. Non ci sono percorsi più brevi da cercare. C'è la strada in cui credi e il coraggio di andare. E voleranno in alto i nostri pensieri più limpidi. Aiutami a ritrovare l'interesse per le piccole cose che sono alla base di tutte le promesse del futuro che cresce. Perché sono le sfumature a dare vita ai colori e a farci tornare in mente le cose più pure dei giorni migliori. Dei giorni migliori. Dei giorni migliori. Dei giorni migliori. Dei giorni migliori.